passato dalla sciopa balaustra con la barba e i capelli incrostati dal sale che gli si poggia sopra per quel suono dell'infrangersi delle onde sul infrangersi gli scogli posti a base di quel faro che è appena acceso e che gli permette di poter guardare nell'infinito del nulla che è l'orizzonte del mare che ha davanti. Out of the shell, si immerge nei propri pensieri come una bestia in tana cantando canzoni d'appartamento, come una bestia in tana mantengo cauto l'appostamento. La casa pericolosa.

dipendente perché cioè, è difficile spiegare questo concetto. È difficile spiegare cosa vuol dire essere parte di una società, di un sistema, e contemporaneamente essere totalmente liberi. Questo è il concetto stesso di libertà. Ed è quello che credo che ognuno di noi debba vivere, debba condividere, debba essere parte di sé e trovare un momento nella propria giornata in cui tutto questo lo realizza. E questo mi rendo conto che non è facile, perché non è facile per me. Però ci si tenta. Sociale è perché, come dirlo, lo dico a modo mio, lo dico come quel piccolo insignificante granello di sabbia che sta immerso nel deserto, o quella piccola lacrima che si immerge nell'oceano. Quando il deserto e l'oceano sono la stessa cosa, sono qualcosa di rigido e qualcosa di fluttuante che rappresentano quell'equilibrio cosmico di cui ognuno di noi fa parte. Questo è l'Out of the Shell come intervento sociale. Out of the Shell fa parte di un canale molto più ampio, fa parte di quel contenitore che si chiama transizione di fase. Come dico spesso io, ogni volta che mi trovo davanti a questo cavolo di microfono, è che non dovrei dirlo, però lo dico. E cioè, tre sono i canali attraverso i quali in questo momento state ascoltando quello che avviene. Il primo e il fondamentale è www.transizionedifase.org, che è il contenitore. Poi ci sta www.oots.it e www.outofthishell.it. Thank you. stanno i canali di comunicazione, quello che in un modo o nell'altro voi potete utilizzare per parlare con Out of the Shell. Allora, il primo, come lo chiamo io, è immediato, nel senso che dovete aspettare di leggere l'email che io rispondo. L'indirizzo è oots@libero.it. L'altro è una cosa semplicissima: bisogna decidere di comunicare con un orso, e allora dovete andare e comunicare sul messenger car@hotmail.it. È l'indirizzo che dovete cercare, chiaramente. Car si scrive car@hotmail.it. Thank you. qua mi è venuta così per come mi appare. Questo lo dico a chi sta ascoltando. Volete veramente, per la prima volta in non so quanti giorni ci sono stati dal 1° gennaio ad oggi, out of the shell, perché personalmente oggi sono pronto. Avete mai pensato di liberarvi delle ali? Quelle ali che comunque ognuno di noi abbiamo sempre sognato di avere. Quelle ali che possono essere bianche o nere. Sono quelle ali da cui ti lasci andare e vai verso il nulla, quel nulla che in un modo o nell'altro cominci a conoscere e ad apprezzare, perché non necessariamente lo devi riempire, devi semplicemente viverlo. Thank you.

propria realtà. Ci sta un po' qui nel mezzo le storie che potrei raccontarvi. Ciò che nel momento in cui ho saputo che potevo andare in onda, nonostante ieri, dopo tanti giorni che non avevo la voglia di rappresentare tra immagini e parole. Veramente avevo voglia di far ascoltare solo musica. Ed era ciò che mi piaceva. Però ve la posso dire una cosa. C'è una cosa che io personalmente non accetterò mai. E l'indifferenza. Yeah. I keep you. comincio a giocare. Allora, c'è una cosa che vorrei dire in questo momento. So che è difficile da esprimere, ma che in un modo o nell'altro voglio spiegare. Non è importante la presenza fisica di ciò che puoi avere, e l'importante è ciò che hai dentro di te, e quell'appartenenza e quel modo di essere che è dentro di te. Perché in un modo o nell'altro la fisicità è un bluff. Forever to him your time, and you know.

Sappiano tenere, ricordati.